vedessi infrangere quel volto sterile che mi tiene sempre più lontana da dove ogni giorno ci sei tu. Potessi toglierti quel sorriso facile, mi sentirei meglio solo per quello, e forse allora ti zittiresti un po'. Una guerra di navi in cui non voglio lottare.